1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici miei, forza cari ascoltatori che vi crogiolate tra le lenzuola o vi attardate nelle vostre interminabili colazioni. Ecco, adesso so già che mi scriveranno quelli: oh, sono dalle 5:30 in giro per lavoro. Va bene tutto. Voi siete salvi dalla mia esortazione, ovviamente. Le 7:19 minuti. Più avanti oggi con Oscar Giannino ci occuperemo di politica, avremo ospite Stefano Fassina, che vuole creare un qualcosa insieme ad altri di alternativo a Renzi a sinistra. E poi avremo ospite il rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone, perché parleremo del progetto annunciato ieri da Renzi del dopo Expo, fare qualcosa, un grande polo scientifico. Certo, però tutti hanno guardato con attenzione al fatto che viene coinvolto soprattutto un istituto di scientifico importante di Genova, e Milano dice: ma come? E Milano? E ne parleremo con il rettore del Politecnico di Milano. State con noi, ora andiamo a leggere i giornali. È mercoledì 11 novembre e allora i titoli. Intanto il Sole 24 Ore apre al via al bonus fiscale per marchi e brevetti, l'opzione entro fine anno. Questo è il titolo di prima pagina che vedremo poi con Mauro Meazza più avanti. Poi la notizia politica del giorno certamente è questa, e su questa aprono vari quotidiani. Indagato De Luca, cioè il governatore della Campania, favori al giudice per restare in carica. Questa è l'accusa e questo è il titolo di Repubblica. Il Fatto Quotidiano: indagato De Luca fece pressioni sui giudici per salvarsi la poltrona. Mentre il Messaggero: De Luca indagato per la sentenza. Ecco allora il Corriere della Sera con il dopo Expo, spinta per l'intesa. C'è anche però un'intervista esclusiva a Tim Cook, l'amministratore delegato della Apple, che ha rilasciato un'intervista solamente al Corriere. Libero: Renzi si compra Milano, è la vicenda Expo. Per La Stampa: lavoro e produzione, segnali di ripresa, al via il polo high-tech. Il Giornale invece: trattativa PD magistrati, Renzi svela l'accordo con la procura di Milano, il grazie per la vostra sensibilità detto ieri. Queste alcune aperture, ne vedremo altre, ma voglio subito tuffarmi sulla vicenda De Luca. Dunque, il governatore della Campania, la cui decadenza è stata sospesa per una sentenza del Tribunale Civile di Napoli, relatrice la giudice Scognamiglio, ora è indagato. E perché? La vicenda è molto complicata. Secondo me la spiega bene soprattutto il Messaggero con Giuseppe Crimaldi a pagina 8. È indagato De Luca proprio per la sentenza che ha dichiarato la sospensiva della sua decadenza. Perché l'accusa è molto forte e proviene dalla Procura di Roma. L'accusa è quella di avere avuto una sentenza pilotata. Indagati infatti il giudice che ha esteso la sentenza, il governatore, il capo della segreteria di De Luca, che si è dimesso in fretta e furia 2 giorni fa, Carmelo Mastursi, e il marito della giudice che ha scritto la sentenza. Il marito si chiama Guglielmo Manna, è un avvocato, attualmente presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Ospedale Pediatrico Santo Bono. L'accusa e tutta la vicenda ruota intorno a un presunto rapporto tra l'avvocato Manna, che come detto è il marito del giudice che ha scritto la sentenza, e il capo, o meglio l'ex capo della segreteria di De Luca, Carmelo Mastursi. L'accusa, secondo i magistrati di Roma, è questa, e cioè che il marito del giudice Scognamiglio avrebbe cercato in tutti i modi una nomina prestigiosa in cambio di un esito favorevole della sentenza su cui si sarebbe pronunciata la moglie nei confronti di De Luca. Questa è l'accusa. Ora, De Luca come ha reagito? Beh, ieri ha fatto un lungo vertice di 2 ore. ha fatto un comunicato stampa dicendo reagirò con una conferenza stampa, ma in realtà qualche dichiarazione a De Luca viene strappata dal Corriere della Sera e dal Messaggero. Eccolo qui il Corriere della Sera, Fulvio Bufi, il retroscena: mi occupo dei problemi e non di queste storie. Il governatore ostenta tranquillità. Dice: due giorni fa si è dimesso il mio capo della segreteria, Anello Mastursi, mi ha comunicato che faceva fatica a reggere il doppio lavoro, da noi non si respira. E l'inchiesta giudiziaria? La perquisizione nell'ufficio di Mastursi? Come al solito De Luca sulle cose che non gli piacciono fa battute. Ho letto anch'io i giornali, ho visto ricostruzioni fantasiose che non perdo neanche 10 secondi a commentare. Ma devo ammettere che Mastursi un po' l'ho invidiato. Ha avuto una pubblicità che nemmeno fosse Winston Churchill o Camillo Benso di Cavour. Se poi ci sono cose da chiarire, la magistratura faccia il proprio lavoro e vada avanti senza guardare in faccia a nessuno. E poi più nulla. Tra l'altro, Mastursi è anche il vicepresidente del PD in Campania. E quindi c'è un problema all'interno del PD, Matteo Renzi, in Campania, evidentemente a questo punto. È anche una persona, come racconta lo stesso Fulvio Bufi sul Corriere della Sera, dai modi un po' spicci. È notorio che con un giornalista che voleva fare qualche domanda a De Luca sia stato preso a calci da questo Nello Mastursi. E stava capitando un'altra cosa con una giornalista, se un paio di colleghi di partito non l'avessero preso di peso e portato via. Quindi Mastursi, l'uomo chiave delle liste, che scalciò un giornalista. Questo è il profilo a pagina 11 di chi è l'ex capo della segreteria di De Luca. Ora ovviamente staremo a vedere che succede di questa sentenza. Voglio andare a Roma invece. Cari amici di Roma, prendete nota. Cari amici di Roma, automobilisti abituati a parcheggiare in doppia fila, prendete doppia nota. Succede questo. Come racconta il Messaggero a pagina 5 con Fabio Rossi, un'altra grana sul Giubileo. È scaduto il contratto tra il comune e la società che fa la rimozione delle auto, per cui stop alla rimozione auto. Al momento non esiste contratto e quindi non esiste carro attrezzi che possa uscire per rimuovere le auto in doppia fila a Roma. Voi vi immaginate già, immagino le esultanze, le scene di giubilo di chi è abituato a parcheggiare in doppia, in tripla fila a Roma. Ma che gli frega, non arriva più il carro attrezzi, potete fare tranquillamente. No, io voglio sperare che dopo l'uscita di questa notizia, nel giro di 24 ore si faccia, per carità, come ha denunciato Raffaele Cantone anche ieri, il 90% degli appalti al Comune di Roma sono senza gara. Ecco, fate un'altra gara di fretta e furia senza fare l'appalto, fate una chiamata diretta con qualche società e rinnovate questo contratto, perché se si sparge la voce che si può parcheggiare in seconda fila e nessuno viene a rimuovere la macchina, è la giungla, cari amici, caro prefetto Tronca, la giungla. Quindi per favore fate in modo che questa notizia che oggi c'è sul Messaggero non viva più di 24 ore e ripristinate il contratto con il carro attrezzi. A proposito di auto, salto sul Giorno perché scopro una notizia che mi fa letteralmente impazzire. Non so se di rabbia, ma sicuramente molti cittadini impazziranno di rabbia, sì. Succede a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, proprio confinante con la mia Sesto San Giovanni, quindi ci sono anche campanilismi evidenti. Non pagate la multa a Cinisello Balsamo e noi vi pignoriamo lo stipendio. Ma com'è possibile, dite voi? È possibile. La linea dura a Cinisello, grazie a un regio decreto del 1910, regio decreto numero 639, si può avviare il pignoramento del quinto dello stipendio presso i datori dei lavori di chi non paga le multe. E c'è ovviamente una rivolta, ci sono persone che lamentano di essere state messe alla gogna nei confronti del proprio datore di lavoro e di aver visto anche il rapporto di lavoro risolto perché è mancata la fiducia. Magari uno prende una multa per un qualcosa di grave e viene messo così alla berlina di fronte al proprio datore di lavoro. Eppure il capo dei vigili urbani in questa pagina di Rosario Palazzolo sul Giorno dice: «È tutto secondo la legge. Noi ricorriamo a questo come atto estremo. Prima chiediamo 3 volte con 3 tentativi di recupero delle somme che vanno a vuoto. A quel punto ci affidiamo a questa possibilità, l'atto estremo, la richiesta del pignoramento dello stipendio, di un quinto dello stipendio, per chi non paga le multe a Cinisello Balsamo». Ragazzi, ragazzi, vabbè, siamo quasi addirittura d'arrivo. Già questi articoli erano da Mani sul Volante, il carro attrezzi a Roma che manca e le multe non pagate col pignoramento dello stipendio a Cinisello. Ma siamo alle tangenti dell'ANAS. Sapete che è stata arrestata la cosiddetta dama nera Antonella Croglianò, dirigente dell'ANAS, che ora, secondo Repubblica, sta confessando nei verbali: tutti pagano tangenti per avere appalti all'ANAS. Ma c'è, a parte questo verbale su Repubblica, sul Fatto Quotidiano con Roberto Rotunno, ed è questo l'articolo che vince il premio Mani sul Volante per l'articolo che mi fa più incazzare della giornata, c'è questo altro interrogatorio a un altro dirigente dell'ANAS, tale Oreste De Grossi, arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Lui ammette: «Sì, avrò percepito 65.000 euro in tutto di tangenti». Sentite come li ha spesi. «Ne avrò spesi 10.000 in francobolli e poi ho comprato una decina di modelli di trenini che costano 300 euro l'uno». Titolo dell'articolo: «Tangenti ANAS, ci compravo dei trenini». I trenini! I trenini! Non è possibile una roba del genere! Vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, il Mark Market dell'informazione. Non suona molto come un complimento per molti italiani. Credo questa. Oh mamma mia, c'è un ascoltatore che mi scrive: «Tu hai un'idea dei romani da film comico, ma risulti solo maleducato, e spero che gli ascoltatori di Roma cambino canale». Ecco, io spero di no, perché sono dotati molto più di spirito dell'ironia di questo ascoltatore, certamente, che saluto comunque, o ascoltatrice, con grande trasporto e grande abbraccio. Su, si faccia anche un sorriso, che magari se si fa un sorriso alla mattina a quest'ora, alle 7.35, magari la giornata svolta in meglio, caro ascoltatore, svolta in meglio, si fidi una buona volta. E c'è chi mi scrive: «Oh, ma chi l'ha mai visto un carro attrezzi a Roma?» Non lo so, ecco, probabilmente ci sarà. Certo, è scaduto il contratto con il Campidoglio, rinnovatelo, prefetto Tronca. Applichi il vigore milanese e rinnovi subito il contratto con il carro attrezzi di Roma. Allora, politicamente, 2 notizie più importanti trovate sui giornali. La prima: beh, ci sono tutti i giornali, soprattutto di orientati alla critica a Renzi, a dire: «Ma come? Roberto Perotti, subcommissario della Spending Review, un altro che se ne va». Ed eccola qui il destino di chi vuole cercare di tagliare la spesa pubblica. Fuga da Renzi, non taglia gli sprechi. Così Antonio Signorini a pagina 3. C'è anche un editoriale di Vittorio Feltri in prima pagina che scrive: «L'uscita di Perotti è una disgrazia che uccide qualsiasi speranza di sistemare i conti sempre più rossi e drammatici, nonostante il governo strombazzi dati statistici strabilianti, bugie penose. E pensare che il premierino, nel giorno dell'insediamento, dichiarò solennemente: recupererò miliardi grazie alla Spending Review e tapperò i buchi di bilancio. Invece ha tappato solo la bocca agli incaricati di limare gli eccessivi costi statali. Dispiace dirlo, ma è così». Molto duro dunque Vittorio Feltri, ma anche Paolo Baroni racconta sulla Stampa come sia difficile, anzi una missione impossibile, il taglio alla spesa in Italia. Mette insieme Piero Giarda, Enrico Bondi, Carlo Cottarelli, ora Roberto Perotti, cioè i vari commissari o subcommissario in questo caso, visto che il commissario in realtà è Joram Gutgeld attualmente, che si sono succeduti. Lui Perotti non parla, intervistato, o meglio raggiunto da Valentina Conte su Repubblica, dice a pagina 6: scriverò perché in Italia non si taglia nulla, ora basta con la politica, torno negli Stati Uniti a fare ricerca, forse scriverò un saggio. Comunque non ho intenti polemici, aggiunge lui, non voglio che suoni come una critica al governo Renzi. È vero, me ne sono andato, ma amichevolmente, non ho insomma sbattuto la porta. Ecco, questa è la posizione di Perotti. Per la verità interviene anche sul Corriere della Sera proprio Piero Giarda. In un'intervista Piero Giarda dice, intervistato dal Corriere della Sera, che è difficile fare la spending review in Italia perché è un qualcosa che prende tempo, ci vuole molto tempo, mentre la gente vuole risultati subito. E invece Giarda dice un qualcosa che ha bisogno di un lungo disegno, di una programmazione, e non può avere risultati immediati. Questa è la posizione di Piero Giarda, ex commissario a Spending Review, intervistato dunque dal Corriere della Sera. L'altra notizia politica è quella certamente del dopo Expo. Il dopo Expo, ieri Renzi era a Milano a annunciare che succederà di questo nuovo Expo. Ha parlato di 1,5 miliardi per i poli di ricerca. Tra l'altro il piano era stato anticipato nel weekend dal Corriere della Sera. Il dopo Expo è un grande polo tecnologico. C'è la polemica, certamente, disinnescata da Renzi a dire non facciamo una guerra di campanili, inaccettabile in tutta Italia, inaccettabile ancora di più per Milano. Risponde però a Renzi il governatore della Lombardia Maroni dicendo non è questione di campanili ma di eccellenze, e cioè il fatto che sia stato scelto un polo tecnologico di Genova per gestire tutta la vicenda ha fatto storcere un po' il naso già nei giorni scorsi alle università italiane, alle università milanesi, tanto che erano presenti ieri anche il rettore della statale Vago, il rettore del Politecnico Azzone, che sarà ai nostri microfoni alle 8:40, e che sono stati incaricati da Maroni per valutare il piano di Renzi, e Maroni ha detto la loro valutazione sarà per me vincolante. Dunque c'è l'annuncio, il polo tecnologico, investimenti da parte del governo, posti di lavoro, c'è anche la polemica che rischia di diventare una polemica di campanile, o non solo, per le università milanesi che dicono beh, ma insomma, e noi? A proposito di università milanesi, ieri alla Bocconi, è la prima volta in un'università non americana, è intervenuto l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, il quale rilascia un'intervista oggi al Corriere della Sera. Paolo Ottolina lo intervista a pagina 8 e 9 ed ecco come si esprime il successore di Steve Jobs. Intanto dice che manda la prima mail ai collaboratori alle 3:45 di notte. 3:45, che deve fare alle 3:45? Ma perché non dorme, non banalmente, Tim Cook alle 3:45? Vabbè, comunque, due pagine di intervista. L'app che mi ha emozionato di più, quella del figlio di un operaio in Cina. Il padre era carpentiere, gli ha insegnato l'arte del legno, e il figlio ha creato un'applicazione per trasmettere ad altri come si fa un intarsio. Storie simili sono molto motivanti. Parla poi dell'iPhone, un prodotto davvero buono, ci lavoravamo da circa 3 anni ma non avevamo immaginato il seguito, non lo avevamo davvero previsto, con l'App Store che è cambiato il modo di fare innovazione. Poi parla del rapporto con la privacy, molto delicato, siamo nell'epoca della nuvola, di internet, del cloud computing, insomma privacy e cloud possono andare d'accordo, chiede il Corriere a Cook, e lui risponde sì, penso ci possa essere privacy nel cloud. Voglio spiegare il mio approccio. Intanto in Apple progettiamo prodotti in modo da mantenere la privacy delle persone. Ci sono cose relative a te che sono criptate all'interno del dispositivo. Non permettiamo che questi dati vadano nel cloud. Non lo facciamo perché sembra che ci sia qualcosa che non abbiamo il diritto di sapere. Noi non leggiamo le vostre mail né i vostri messaggi. Si possono fare grandi prodotti e insieme avere un'adeguata protezione dei dati personali. E a un certo punto Tim Cook dice: se avessi dati per esempio sulla salute delle persone, potrei elaborare molti ragionamenti sulla persona, ma molte cose orribili succedono se si arriva a questo secondo livello, cioè quando le persone hanno dato il permesso a chiunque di sapere cose di sé. Io credo che un giorno succederà qualcosa di disastroso. E allora faremo una pausa e diremo: ma perché abbiamo permesso tutto questo? Come è potuto accadere? Io sono ottimista per natura, spero non si avveri, ma è per questo che insisto sulla privacy. Insomma, dice tante altre cose. Tim Cook, 55 anni, amministratore delegato di Apple dal 2011, in questa intervista per la prima volta in Italia, in un'università, parla con il Corriere della Sera. Eccoci qui, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto grazie di farmi precedere da queste dichiarazioni di Tim Cook. Una volta tanto non ci sono i soliti indagati, inquisiti, arrestati. Potevo parlare di De Luca se vuoi adesso. No. Volevo fare una postilla su De Luca se vuoi. No, fermiamoci qui perché è un momento importante. Innanzitutto mi dovresti dire una cosa. Non è che in mezzo a tutti i giornali, sai, mica un decreto sull'ispettorato del lavoro. Vediamo un prova po' a guardare qua. Bene. No, perché dunque sai che nel Jobs Act, nel Jobs Act c'era questa cosa della unicità dei controlli appunto in materia di lavoro, però serviva un decreto che era atteso entro l'8 di novembre e mi pare che l'8 di novembre sia trascorso. Sì, allora, sì, da un paio di giorni. Sì, leggevo appunto su Norme e Tributi oggi sul Sole 24 Ore, che tu poi leggerai sempre religiosamente come devi fare, che però questo fa sì che i controlli restino disuniti, in qualche modo disorganici, e quindi probabilmente anche meno efficaci e più fastidiosi poi dal punto di vista proprio operativo e amministrativo. Comunque, insomma, se lo trovi chiamami che certo, cerchiamo certo di farlo avere. Se lo porto al bar. Riordina un attimo nelle carte. Poi ti voglio ancora parlare di catasto, però forse non ne parlo con te, ne parlo più tardi. No, non ne parlo io, ne parlerà l'ottimo Cristiano Dell'Ostia, cuore e denari del catasto in metri quadri. Ma certo. Ecco, perché sul Sole 24 Ore di oggi, sempre nelle pagine di Norme e Tributi, che tu leggerai sempre religiosamente, molto bene, abbiamo due pagine appunto dedicate a questa innovazione delle misure possibili anche con i metri quadrati. Non è il catasto che ti tassa sui metri quadrati, non è ancora così, è una cosa un po' diversa, ma spieghiamo tutto appunto su Norme e Tributi. E poi alle 10.30 qui a Radio 24. Alle 10.30 si verrà l'ottimo Cristiano Dell'Oste, perché è il più titolato in qualche modo a parlarne, è stato il primo tra l'altro a parlarne lunedì di questa novità. Poi ti volevo dire, puoi mostrare per favore la vignetta di Domenico Rosa di oggi? Ecco, perché da questo gli ascoltatori possono valutare l'entità di queste richieste che la Gran Bretagna ha fatto alla UE, sì, tra cui l'opt-out, insomma praticamente per riassumere in malo modo, sì, noi stiamo nell'Unione, però vogliamo tutta una serie di deroghe alla materia, ma ne riferiamo compiutamente nelle primissime pagine. Tra l'altro nelle primissime pagine noterai anche che parliamo del patent box. Esatto. Sei preparato sul patent box? Preparatissimo. No, non sei preparato per niente, millantando. Per nulla. Stai millantando. Allora è un'agevolazione di fiscale per l'utilizzo di marchi e brevetti, sconti, appunto riduzioni del 30, arriveranno al 50%. Lì il decreto invece è arrivato, non come quello dell'ispettorato che forse hai tu lì tra i giornali. Guarda bene, perché sei sempre disordinato. No, ma guarda che sì, sono disordinato, questo è vero, ma no, sei sicuro che non c'è? Ecco, poi sulla legge di stabilità, che ancora è un disegno di legge, ricordiamo sempre, abbiamo scoperto che l'IMU sugli imbullonati, sì, la toglieranno, ma dal futuro, quindi non ci saranno, non ci saranno effetti positivi, toglieranno appunto, è un futuro, e quindi questo accadrà in futuro. Tra l'altro, in questo lavorio attorno alla legge di stabilità, abbiamo anche verificato, abbiamo avuto la conferma, che in 7 milioni non gli italiani non paghiamo il canone, non pagano, mi viene da dire, ma insomma adesso è un po' un problema di tutti, quindi c'è la famosa vicenda del canone Rai. Molte altre cose ti vorrei dire, ma concludo con una notizia un po' da dita incrociate. Moody's ha alzato il rating, ha migliorato il rating per le banche italiane. Lo ha portato da negativo a stabile, l'outlook da negativo a stabile. L'ho letto nelle pagine di Finanza che tu leggerai coscienziosamente più tardi, cercandomi per favore anche quel decreto sull'ispettorato. Parole. Grazie caro Alessandro, ma soprattutto traffico! Uè uè, Alessandro Milan, da Viaggia Notizie! E allora andiamo un po' velocemente, cari ascoltatori. C'è una notizia che riguarda Matteo Salvini e è uscita solo su Repubblica. La notizia è questa, racconta Carmelo Lopapa, pagina 8. Israele ha negato la possibilità che Salvini possa fare una visita, che era già stata annunciata. L'altolà di Israele a Salvini non può venire da noi, salta il viaggio a Gerusalemme. L'ambasciata di Roma, che fa capo all'ambasciatore israeliano Naor Gilon, ha fatto sapere in via ufficiosa come la missione venga considerata politicamente inopportuna alla luce delle posizioni che il capo della Lega ha assunto sulle politiche per l'immigrazione, ma anche per le alleanze estreme strette in Europa, sia con Marine Le Pen, ma anche poi in Russia con Putin. Insomma, per questi motivi, Israele, nella massima discrezione, ha detto no a Salvini. Tra l'altro Salvini, racconta sempre Carmelo Lopapa, vorrebbe forzare in qualche modo la mano facendo un viaggio in veste privata da trasformare poi in occasioni per incontri e appuntamenti. Staremo a vedere. Mentre sempre per quel che riguarda la politica, Berlusconi ci riprova con Del Debbio. Sembra ormai una telenovela, ma racconta Libero con Matteo Pandini e Fabio Rubini che oggi, tutt'al più domani, Berlusconi tenterà l'ultimo assalto per convincere il conduttore di Quinta Colonna e dalla vostra parte, Paolo Del Debbio, a candidarsi sindaco a Milano per il centrodestra. Staremo a vedere se almeno ci sarà la parola fine su questa vicenda. Oggi c'è un importante convegno dell'Unione Europea, una riunione dell'Unione Europea a Malta sull'immigrazione. E Matteo Renzi scrive con carta e penna una lettera ad Avvenire. Avvenire pubblica tutto ciò in prima pagina, e cioè la strategia dell'Italia. Il Presidente del Consiglio spiega la posizione che l'Italia sosterrà al vertice di Malta con 60 capi di Stato e di Governo. Dice Renzi in questa lettera pubblicata ad Avvenire: al summit della Valletta per la prima volta si agirà sulle cause profonde delle immigrazioni. Lavoreremo per favorire lo sviluppo, migliorare la collaborazione tra paesi europei e africani nella prevenzione e contrasto dell'immigrazione illegale. Si farà un trust fund dal quale l'Italia sarà tra i principali contributori e sarà questo lo strumento operativo di una cooperazione innovativa. Dunque più soldi per la cooperazione. Ricordiamo che l'Italia è uno dei paesi storicamente che promette di dare soldi alla cooperazione e poi non li dà mai. Mai. Dunque, promesse da marinai. Speriamo che non sia così anche stavolta. Una notizia veloce di cronaca riguarda la vicenda di Ancona, e cioè l'omicidio di Ancona, questo ragazzo Antonio Tagliata che ha ucciso la mamma della sua fidanzata e ha messo in fin di vita il papà. È venuto fuori che anche il padre del killer in passato ha avuto un'inchiesta per una vicenda analoga. Anche il padre del killer uccise per amore. Quando era il 1988. Questa è la vicenda. Il 18enne chiede di restare in isolamento. Ha detto di aver acquistato la pistola da un albanese per 450 euro. La vicenda però che è uscita è che nel passato di suo padre c'è una vicenda simile, l'accusa di aver ucciso un rivale in amore. Vabbè dai, siamo alla carta costa. L'articolo più inutile oggi sui giornali sono due pagine sul meteo. Io non le capirò mai, le previsioni meteo. E anche Repubblica non le capisce, la battaglia del meteo. Guardatela anche in diretta su Periscope. Ti dice che è inutile consultare le previsioni meteo. Nessuno ti dice se pioverà, se ci sarà il sole. Non fatelo. Oppure fatelo, fate quello che volete. Il meteo. Ma chi se ne frega!